27 aprile 1976, Gaetano Amoruso. Il forte vento antifascista che soffia su Milano dopo l'uccisione di Varalli e Zibecchi porta un giovane studente lavoratore di 21 anni, Gaetano Amoruso, a creare, insieme ad altri giovani militanti della sinistra extraparlamentare, il Comitato Rivoluzionario Antifascista di Porta Venezia. La diffusa violenza squadrista in città, troppo spesso coperta dallo Stato, spinge Amoruso ad intensificare la sua già attiva da anni lotta contro il neofascismo nel quartiere. La sera del 27 aprile 1976, un gruppo di 8 missini, proveniente dalla sede MSI di via Guerrini, aggrediscono Amoruso e due suoi compagni. Ferito mortalmente, morirà il 30 aprile. Per il suo omicidio e il ferimento degli altri due ragazzi, gli 8 squadristi vengono accusati di omicidio premeditato e tentato omicidio pluriaggravato e quindi condannati. 27 aprile 1976, Gaetano Amoruso. Gaetano Amoruso venne ucciso la sera del 27 aprile 1976, mentre con alcuni compagni del circolo antifascista di Porta Venezia percorreva via Liberti a Milano. Studente e lavoratore, frequentava l'ultimo anno del corso serale presso la scuola artistica del Castello, che oggi porta il suo nome. La forte presenza fascista all'interno del suo stesso quartiere e lo sdegno per l'uccisione di Claudio Varalli e Giannino Zibecchi lo avevano convinto ulteriormente della necessità di una presa di posizione decisa contro i gruppi fascisti milanesi. Aveva 21 anni quando un gruppo di militanti fascisti provenienti dalla sede dell'MSI di via Guerrini raggiunse lui e i suoi amici, aggredendoli alle spalle. Nell'aggressione Gaetano fu colpito mortalmente da una coltellata, che ne causò la morte da pochi giorni. Gli altri compagni del circolo, al momento dell'aggressione, riportarono ferite di vario genere, ma riuscirono a salvarsi. I fascisti coinvolti nell'aggressione furono arrestati dopo poche ore con l'accusa di aggressione, in seguito trasformata in omicidio per la morte di Gaetano. 18 marzo 1978, Fausto e Iaio. Il 18 marzo 1978, a soli due giorni dal rapimento di Aldo Moro a Roma, due giovani militanti comunisti del circolo milanese Leoncavallo venivano uccisi con colpi di pistola da tre killer appostati lungo via Mancinelli. Il loro omicidio rimane tuttora privo di colpevoli e avvolto da numerosi misteri, molto probabilmente legati ai fatti di quei giorni. Fausto Tinelli e Lorenzo Iaio Iannucci, entrambi 19enni, vennero colpiti a morte con 9 colpi di pistola. Il primo a cadere, secondo le testimonianze, fu Fausto, colpito mortalmente al torace e all'addome. Nei mesi successivi all'omicidio di Fausto e Iaio, il cronista di Nera, Mauro Brutto, continuò a raccogliere informazioni sul delitto di via Mancinelli. Nel novembre dello stesso anno venne investito e ucciso in circostanze misteriose. Non molto dopo l'omicidio dei due giovani, arrivarono alcune rivendicazioni da ambienti vicini all'estrema destra, tra le quali quelle dell'Esercito Nazionale Rivoluzionario, Brigata Combattente Franco Anselmi, la più credibile secondo le indagini, e che portò gli inquirenti al nome di Massimo Carminati e di altri fascisti vicini ad ambienti criminali romani. Dopo anni di indagini, tuttavia, i fascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi vennero prosciolti per l'omicidio di Fausto e Iaio, insieme ad altri fascisti accusati di complicità nel delitto. Nei loro confronti vennero sollevati solo alcuni indizi, ma niente che potesse portare ad una incriminazione certa. Ma forse le ragioni profonde dell'omicidio di questi due giovani e attivi militanti comunisti va ricercato nella pista che porta al covo milanese delle BR, dove anni dopo venne ritrovato il famoso Memoriale Moro.